la versione di Oscar Giannino. Buon pomeriggio, cari ascoltatori di Radio 24, e questo lunedì 2 di dicembre, 16:36, 27 secondi, a chi ci segue in diretta, grazie, a chi ci scarica, poi ci ascolta in podcast. Allora, la domanda che lancio subito a chi fosse interessato a chiamare all'800 24 00 24 riguarda il tema di questa breve puntata. Torniamo sull'IMU, e quindi vi chiediamo se siete per caso in uno di quei 2400 comuni destinati a salire la cifra fino all'inizio di dicembre, che hanno modificato oltre il 4 per mille, quindi il governo non copre l'aumento dei comuni, e se quindi sarete chiamati allo Stato a delle cose ancora così, visto che non c'è un provvedimento, una risposta dal governo, a pagare una quota dell'IMU prima casa dopo 7 mesi in cui vi era stato assicurato che non avveniva, chiamate e dirci e diteci come la pensate, perché il tema oggi è quello dell'IMU, ma trarremo spunto dall'ospite che vi presento tra pochissimo, da un imprenditore che ha deciso di fare una cosa un po' spinta, perché non ce la faceva a pagare l'IMU sul capannone. Prima consentitemi solo 30 secondi su una vicenda, perché è quella dell'incendio dello stabilimento tessile a Prato, in cui sono morti 7 cinesi, perché vi ricordate che la settimana scorsa noi abbiamo toccato questo punto quando parlavamo nella puntata di quell'azienda di porcellane e tazzine savonese che allo stremo, oramai alla liquidazione, aveva lanciato un appello ai cinesi perché la comprassero, e con Dario Di Vico, che era nostro ospite del Corriere della Sera, toccammo esattamente il punto di Prato e parlammo di due problemi. Parlammo di un problema che era irrisolto dell'integrazione, e di un altro che sollevammo, esattamente quello del mancato rispetto delle leggi di sicurezza sul lavoro, delle leggi su come si presta il lavoro, e segnalavamo come da anni questo è un problema sotto i nostri occhi. Puntualmente, pochi giorni dopo questa vicenda con 7 morti, uno solo identificato al momento, non si sa ancora di chi è il capannone, e il procuratore della Repubblica di Prato dice: del resto, che cosa volete da noi? Lo troverete sui giornali di domani. Qui è il Far West, ma noi non abbiamo gli organici per fare fronte a questa situazione. E la situazione di Prato è sotto gli occhi di tutti da anni. Edoardo Nisi ci ha vinto lo Strega 2 anni fa, raccontando già storie di come questa comunità di capannoni dismessi veniva preso dai cinesi che non rispettavano le norme, e che all'indomani di questa tragica vicenda poi il procuratore dica: beh, avremo bisogno di più posti in organico. Io capisco il sottodimensionamento, però è la conferma di come vanno le cose in Italia. Problemi rilevanti sotto gli occhi di tutti, che solo poi quando avviene l'alluvione, come sta continuando a venire nel sud Italia dopo la Sardegna, o la tragedia di morti come topi in condizioni terrificanti di cui non siamo in grado di sapere neanche l'identità, allora poi ce ne rendiamo conto, ed è una cosa di fronte alla quale allargare le braccia. Ma per casualità? No, per necessità, ne abbiamo parlato la settimana scorsa. Allora, torniamo, perdonatemi, sulla vicenda dell'IMU, e io vi presento subito il nostro ospite, continuando a dirvi chiamate per la seconda parte per dirci come la pensate, se siete chiamati appunto a pagare una quota ancora sulla vostra prima casa. Ma l'ospite di oggi si chiama Alberto Rocchi, è un imprenditore toscano, e vorrei che ci spiegasse come mai ha deciso questa cosa un po' estrema, perché lui ha deciso, per non pagare l'IMU sul capannone, perché non ce la faceva, di smontarlo il capannone. Buon pomeriggio, Rocchi, è così? Sì, buonasera, grazie della possibilità. Sì, la cosa è una cosa che ci pensavo già l'anno scorso, a dire il vero, perché con il capannone sfitto, Equitalia che ha già messo in passato, mise un'ipoteca giudiziale su degli immobili, una ditta mi è fallita, quindi avendo già un passato, diciamo, dove ho visto, ho capito come funziona un po' la situazione, quest'anno ho preso questa decisione un po' estrema di smontare il capannone, non solo per risparmiare sull'IMU, comunque sono 47.000 euro per 10.000 metri quadrati di capannone, ma anche per vedere di vendere questo capannone, comunque è ricomponibile, quindi ha ancora un valore commerciale magari all'estero, e pagare le cartelle esattoriali, perché un'eventuale ipoteca giudiziale, ovviamente chi gli addetti ai lavori lo sanno come funziona: uno ha un'impresa che per 20 anni ha lavorato, si trova in difficoltà, cartelle da pagare, viene messa un'ipoteca giudiziale, la banca immediatamente tolgono i fidi, diventi un cattivo pagatore e ci si avvita, a quel punto ci si avvita e non si può fare più niente. Le faccio una domanda, è finito la, una vita. Le faccio una, esatto, perché a quel punto poi è marchiati a vita con, nell'ordinamento italiano. Allora, un nostro ascoltatore, ne approfitto per dargli la risposta, dice: ma le unità immobiliari invendute delle imprese di costruzioni eccetera eccetera continuano a pagare l'IMU? No, in quel caso il magazzino, le invendute delle imprese edili e nella norma della legge di stabilità sono state, per così dire, esentate. Le faccio proprio una domanda a questo capannone, io ho chiesto all'avvocato, ho detto no, il capannone esattamente andava pagato. Il capannone, sia pur non utilizzato come nel suo caso è sfitto, continua a pagare. E invece io volevo dire, poiché secondo me giustamente abbiamo sollevato dall'IMU il totale del magazzino invenduto delle imprese che costruiscono case e non trovano a venderle, per me, dal mio modestissimo punto di vista, le cose dovrebbero essere totalmente assimilate. Com'è che invece lo Stato, a chi ha beni strumentali inutilizzati per crisi di impresa o sfitta come nel suo caso, continua a chiedere i soldi? Ma io non lo so, andrebbe chiesto a qualche parlamentare ben pensante che... perché per un'impresa immobiliare il magazzino sono la roba in affitto, questo qui è, questo capannone è testato, un'impresa immobiliare e ovviamente noi lo mettevamo in affitto, quando una cosa non rende non dovrebbe essere tassata, non dovrebbe essere pare elementare, però non riusciamo a farlo passare questo principio. E la domanda che le faccio, lei lo ha smontato perché ci ha spiegato che è un prefabbricato, sì. Ma smontandolo, la tesi dell'Agenzia delle Entrate che lei deve pagare comunque, oppure le hanno riconosciuto di no? No, vabbè, quando io faccio una scia per smontare il volume non c'è più, quindi io pagherò sul terreno edificabile, sì. Che è un ventesimo ovviamente. No, la cosa assurda che è successa a Cascina, che io dove sono anche consigliere comunale, quindi insomma un po' di polemiche, che io sono stato denunciato per smaltimento illecito di rifiuti perché secondo qualche cervello, dal momento che io le lastre di cemento armato le metto sul mio piazzale industriale, con una, ovviamente con una scia per deposito temporaneo. Che lei ha fatto secondo quando prescrive la legge. Certo, e per loro è uno smaltimento illecito di rifiuti. Quindi sono stato denunciato. Anche questo. Senta, lei ha un'impresa in che settore? Io avevo, si può dire, avevo, perché mio padre, siamo una famiglia di imprenditori, c'avevo 60 dipendenti fino al 2008, costruivamo più che altro case residenziali, poi la crisi, poi io vabbè, un po' accentuata dal fatto che è morto mio padre, poi la mia mamma, c'ho una sorella down, ovviamente tutti i comuni chiacchierano, ma nessuno aiuta nulla, perché la mia sorella c'ha 600 euro di pensione a 40 anni e nessuno la guarda più, la devo guardare io. E non c'è stato nessun aiuto da parte delle enti locali, anche se per 20 anni mio padre e mio nonno hanno pagato miliardi di lire di tasse. E abbiamo cercato di ricollocarti, io avevo aperto un'impresa per riciclare rifiuti, ma problemi politici, burocratici, storia, e quindi niente, siamo rimasti in 5 e ora sono tornato a fare lavoro che faceva mio nonno una volta, cioè piccoli lavori edili, ristrutturazioni, pochi maledetti e subito, come si diceva a noi, con una tragedia che tutto l'invenduto e tutto il lavoro di una vita di mio padre e mio nonno, io non so se ce la farò a mantenerlo, perché sono fra tasse, manutenzioni, robe, pratiche, mi sto mangiando, se non cambia qualcosa, il lavoro di una vita. Aspetti un secondo che abbiamo un minuto di informazione stradale e poi torniamo con... Non ancora? Sì. No, mi dicono che in questo momento le informazioni stradali sono in ritardo. Ma da questo punto di vista mi faccia fare un'altra domanda. Lei ha utilizzato tutte le possibilità, rateazioni e così via, che la magnanima Agenzia delle Entrate metteva a disposizione di un'impresa in crisi? Sì, ma il problema è che io, avendo già avuto un fallimento, a me non mi rateizza nulla nessuno. Esatto. Quindi, cioè, perché in questo paese se uno fa... Io ho lavorato 20 anni, mi sono preso responsabilità, non ho intestato a prestanome, a cavoli vari, come faccio, ho sempre messo la faccia, sia in comune da tutte le parti, perché conscio di una storia, di 20 anni di attività, pensavo che avesse un valore, questo paese non c'è più valore di nulla, cioè la mia famiglia, il mio nome, Rocchi, che ha voluto dire posti di lavoro per 20-30 anni, pensavo che valesse qualcosa mettendoci la faccia. Niente di tutto questo. Cioè, i commercialisti a me mi hanno detto: te sei un bischero, perché te, se intestavi, facevi fusioni, storie, se sparivi, eri un ganzo. Non pagavi, capito? Invece io, siccome ci ho messo la faccia e mi sono preso responsabilità, ho portato libri in tribunale quando non ce l'ho fatta più. Io sono un cretino, sono un reietto bollato dovunque. No, lei non è un cretino, lei è secondo me una delle tantissime vittime del fatto che noi non riusciamo ad avere una legislazione che preveda, non solo nei momenti durissimi di crisi, ma in maniera ordinaria, il fallimento senza che sia un marchio di infamia che impedisce la continuità, come avviene nelle legislazioni di moltissimi paesi, negli Stati Uniti, bla bla bla, ma senza dire. Il problema è che non ci riusciamo, ce ne rendiamo conto poi nella crisi. Cosa vuol dire? Naturalmente, faccio riflettere tutti, qualche ascoltatore dice: beh, ma in fondo, attenzione, far sparire imprese che hanno decenni di storia e con 60 famiglie che, e una volta chiuse non è che riemergono. C'è la distruzione creatrice, sì, però c'è anche l'effetto del venir meno di questa unità organizzativa che va avanti nel tempo e che naturalmente fino a questa crisi ha nei decenni mutuato, cambiato, ammodernato la sua maniera di lavorare, non è che lavorasse come quando il padre all'inizio l'ha fatta. Ecco, questa cosa una volta distrutta è un capitale sociale pubblico che se ne va, perché le imprese sono questo, non sono solo un patrimonio di chi ne esercita il controllo. Allora, siamo in ritardo, strade. La versione di Oscar. Eccoci tornati in diretta a 16:50. Molti ascoltatori ci hanno mandato degli sms relativi alla vicenda anche lì di Capannoni, quelli di Prato coi cinesi, sono di molte aree del nord, Milano, Bergamo, anche dal Veneto, che dicono: ma scherziamo, facciamo sul serio? Se qua qualcuno provasse a fare attività produttive in Capannoni intestati a nessuno, avrebbe nel giro di una settimana al massimo polizia, carabinieri, guardia di finanza, agenzia delle entrate, eccetera eccetera. Io tendo a credere a questi messaggi, quindi ci sono aree del paese in cui da anni siamo andati avanti chiudendo gli occhi di fronte a realtà che erano evidenti a tutti. Resta il fatto che è un paese strano questo, dove naturalmente poi una funzione elementare dello Stato come quella di accertare chi fa cosa viene praticata in un modo in una certa area geografica e in altri modi in altre aree geografiche. Poi altre informazioni, sì, arriveranno sia le trasmissioni sulle quote latte con lo scandalo della GEA, sia quella sui furconi, l'abbiamo detto prima della manifestazione. Adesso sentiamo qualche ascoltatore, abbiamo un sindaco che ci ha chiamato, il sindaco del comune di San Pietro di Cadore. Buongiorno sindaco. Buongiorno a lei. Dica, come allora, si chiama, se posso chiedere? Io sono Silvano, mi chiamo. Silvano. Puntil. Lei cosa ha fatto con l'IMU? Ha aumentato l'aliquota? No, noi abbiamo avuto, diciamo così, se si può definire, la lungimiranza nel lasciare invariata l'aliquota del 4 per 1000, no? Sì. Però non è stato semplice, perché in quel momento molti comuni a me vicino l'alzavano. Hanno purtroppo aumentato per difficoltà nella gestione, perché questo, di certo, questo si parla. Devo dire che lo facevano, a loro discolpa, per quanto non mi piaccia mai aumentare le aliquote, ma lo facevano in piena legittimità di legge, perché il governo non ha inibito ai sindaci nel frattempo la facoltà di farlo. Noi facciamo gli esattori, ecco, dello Stato, esatto, no? Facciamo gli esattori. E adesso io che il governo se ne esce dicendo chi lo ha fatto si fa pagare dai cittadini. Esatto, adesso, no? Ecco. Adesso. E quei poveri sindaci che hanno dovuto, sono stati convinti di potercela fare, hanno messo in castigo ancora una volta i propri cittadini, esatto, chiaramente, no? Ma io volevo intervenire anche perché sono comunque un piccolo imprenditore, sì, del settore degli occhiali, di questa vicenda del nostro Alberto Rocchi che smonta perché non può pagare, che pensi? Beh, io non ho smontato perché non potrei, perché è una costruzione ancora in sassi, no? Di una volta. Quindi non è un prefabbricato, insomma. Non ho un prefabbricato, è una struttura, è una casa sostanzialmente dove ho la mia attività da 33 anni, credo, circa, no? Sono ancora vivo, diciamo così, come azienda, nonostante ormai lo Stato, che lei ha definito poc'anzi strano, io lo definirei con parole molto più aspre, più cattive. No, ma anche io abitualmente lo definisco ladro, quindi si figura, per me è stato Definirlo strano è, essere troppo buoni, sì, no? Sì. La mia attività, che in questi ultimi anni l'ho tenuta in piedi perché abbiamo una conduzione familiare, quindi possiamo, diciamo così, gestirla in maniera diversa. Però quando è dura, c'è bisogno, insomma, di lavorare 10 ore, lavoriamo 10 ore, quando non c'è lavoro, anche se ho dipendenti, no? Sì. Però le difficoltà ci sono. In questo momento comunque ci stanno strozzando pur lavorando, perché il dramma, che io continuo a dire, è nonostante stia lavorando, a fine anno non mi rimane niente, anzi probabilmente devo aggiungere qualcosa. Ah, beh, certo. Ecco, e quindi la situazione dell'Italia, che io la definisco ormai una situazione fallita, sicuramente. Sindaco, io adesso devo richiamarla al tempo. Io purtroppo la fermo su questo aggettivo, perché io preferisco declinante, però da tanti punti di vista come si fa a non essere d'accordo con quello che lei ci ha appena detto? C'è Roberto che ci chiama da Roma. Prego, Roberto. Buongiorno. Buongiorno. Sì, dica. Sì, io volevo commentare qualcosa sulla questione di Prato e dei cinesi, dica, se posso. Al volo. Sì, volevo dire che la situazione di Prato è molto particolare, perché ormai abbiamo visto tantissime trasmissioni televisive. Sì, negli anni, dove, come no. Appunto, ci sono state delle verifiche da parte dei vigili urbani, polizia, guardia di finanza, quindi è un fenomeno noto. Esatto. Soltanto io ho paura che si sia verificata una specie di situazione delle legazioni europee in Cina dell'Ottocento al contrario. Cioè la quiescenza al fatto di non vedere che loro facevano come diavolo volevano. Questo io la definisco, le devo purtroppo levare la parola. Credo che lei abbia ragione, anche dal mio punto di vista. E non riesco a capire un procuratore che di fronte a questo dice: ma sapete, qua al Far West non ci sono abbastanza posti. E come si fa se chi deve far rispettare la legge ci dice: è il Far West? Allora, grazie a Alberto Rocchi per la sua testimonianza. Un abbraccio da parte di noi tutti, solidarietà, continuate ad ascoltare Radio 24, con noi ci sentiamo domani.